Un salutone a tutti e tutti, nuova puntata di Passaggi a Nord-Ovest, la rubrica di Radio Wombat che parla dei fatti accadono nel quadrante Nord-Ovest della metropoli fiorentina, raccontate da chi nei quartieri ci vive e ci lavora. Passaggi a Nord-Ovest va in onda in diretta tutti i lunedì alle 14 e in replica il martedì e il giovedì alle 13:30 e il mercoledì e il venerdì alle 14. Proponiamo oggi la seconda parte dell'intervista a Cobas della Ginori di Sesto Fiorentino, storia fabbrica radicata nel territorio. Ricordiamo che la prima parte è andata in onda 2 settimane fa e la potete riascoltare in podcast andando alla sezione podcast di Wombat sul sito di Radio Wombat, appunto wombat.noblogs.org. Nella sezione podcast, da lì scorrete il menu a tendina, andate fino a Passaggio al Nord-Ovest e vi scaricate tutte le puntate precedenti di Passaggio al Nord-Ovest e quindi anche quella che riguarda la prima parte dell'intervista al Cobas della Ginori, che è la puntata 21. Ecco la seconda parte dell'intervista. E quindi siamo ancora qui con Giovanni del Cobas Ginori e gli chiediamo, allora, innanzitutto, come siete inquadrati, ecco, da un punto di vista normativo, come categoria? Contratto dei chimici con nel settore della ceramica ornamentale. Contratto è un contratto come tutti gli altri contratti, insomma, che soprattutto dal punto di vista economico ci sarà ancora da lottare molto. Poi abbiamo ovviamente un contratto aziendale e in questo contratto, appunto, come dire, che fu fatto poco tempo dopo l'acquisto di Gucci, da parte di Gucci della Licia Ginori, tentammo, come dire, di dare alla Licia Ginori tutti gli strumenti possibili che erano necessari in quel momento per il rilancio dal punto di vista normativo. Quindi firmammo un contratto che prevedeva un certo grado di flessibilità, delle aperture sugli straordinari, insomma, facemmo in modo, dal punto di vista sindacale, penso responsabilmente, di dare in mano alla Licia Ginori tutti gli strumenti possibili per un rilancio veloce e concreto della fabbrica. Quindi un tipo di contratto non particolare, però diciamo che non è facilmente rintracciabile in altre fabbriche del territorio, comunque della zona. Purtroppo, per quanto riguarda il livello nazionale, purtroppo di fabbriche di porcellane c'è la Licia Ginori e basta, ormai è rimasta. Adesso Fiorentina era famosa come dire, un comparto della ceramica, ma piano piano sono scomparse tutte, quindi è rimasta Licia Ginori. Quindi applica il contratto della ceramica domestica ornamentale, ci siamo in sostanza noi e basta. Altrettanto per quanto riguarda il contratto a livello aziendale, anche lì appunto è un contratto che abbiamo noi e basta e che era quando fu fatto propedeutico a uno sviluppo dell'azienda che veniva appunto dal fallimento e che quindi aveva la necessità di strumenti per poter ripartire. Cobas Ginori, ecco, perché? Come si è giunti a questa cosa e come si è evoluta, ecco, nel tempo fino ad ora? Anche questa è una vicenda abbastanza lunga e complicata. Ma tutto è nato, i Cobas ovviamente, Licia Ginori non c'erano, la sigla maggioritaria era la CGL e una decina d'anni fa fu deciso di fondere la categoria dei chimici con la categoria dei tessili. Quindi da Filcem, categoria dei chimici, si trasformò in Filctem, chimici e tessili. Ovviamente fu fatto un congresso al momento della fusione e in sede congressuale il segretario generale della FILCEM era Luca Paoli, la stragrande maggioranza dei lavoratori erano favorevoli a questo segretario generale, a Luca Paoli, appunto perché aveva trasformato la categoria FILCEM in una categoria all'avanguardia da tutti i punti di vista. Nelle lotte che faceva e che come dire, con grande determinazione, grande forza, ma in tutti gli aspetti, nella preparazione dei sindacalisti, nella preparazione del gruppo dirigente, era una categoria veramente, veramente importante e diversa da tutte le altre in Camera di Lavoro di Firenze. Questa cosa, come dire, disturbava in Camera del Lavoro e fu fatto di tutto per estromettere alla fine quel gruppo dirigente lì, in primis il segretario generale Luca Paoli, che fu, come dire, cacciato dalla CGIL in maniere anche brutali, così come brutalmente furono trattati anche tutti gli altri del gruppo dirigente della categoria, tutta la segreteria in sostanza. I lavoratori della Riccia Ginori, che avevano come punto di riferimento la FILCEM, appunto, e il suo segretario generale, capirono immediatamente che da lì a poco tempo sarebbe avvenuta una normalizzazione della categoria stessa e quindi, come dire, riportata nei ranghi che invece, come dire, e negli schemi che invece da Luca Paoli erano stati completamente rotti, cioè, come ripeto, era una categoria all'avanguardia in tutto e per tutto. Capirono immediatamente questa cosa e prima i delegati, poi seguiti dalla stragrande maggioranza dei lavoratori, decisero di lasciare le tessere della CGIL e trovare un altro sindacato. Iniziarono i contatti con i COBAS e decidemmo appunto di confluire in un sindacato autonomo che dava, come dire, molte garanzie dal punto di vista dell'autonomia stessa del lavoro sindacale, e quindi la stragrande maggioranza delle tessere CGIL si trasformarono in essere COBAS. Ma tutto questo appunto nasce da quella famosa fusione fra FILCEM e FILTEM e dalla percezione che ebbero i lavoratori immediatamente, che sarebbero passati da una categoria combattiva, battagliera, all'avanguardia in tutto, a una normale categoria della... C'è stato il passaggio dell'occupazione e poi anche quest'ultimo periodo, questi ultimi 4 anni. L'elezione dell'RSU, ecco, com'è la situazione attualmente? Per quanto riguarda l'RSU, delegati CGIL e delegati COBAS sono dello stesso numero, più un delegato CISL e un delegato della UIL, e i COBAS però rimangono ancora come iscritti maggioritari all'interno della Fabbria, e come COBAS insomma, siamo stati protagonisti in tutte queste vicende dal momento in cui i COBAS sono nati ad oggi. È stato fatto anche, come dire, un tentativo di allargare questa esperienza alle altre fabbriche della categoria, partendo da quelle dei chimici, però purtroppo nelle altre fabbriche non c'è stato né la forza né la volontà di fare questo passo, il passo cioè di passare dai confederali ai COBAS. Alcuni hanno aderito nel settore dei pellami, nella zona di Santa Croce sull'Arno, qualche altra fabbrica nell'Empolese, e questo, come dire, ha dato anche molto fastidio e come dire, ha anche paura, perché i COBAS in quel momento stavano crescendo grazie all'esperienza della Riccia Ginori. Altri lavoratori si erano avvicinati, altre fabbriche si erano avvicinate, insomma, ecco, questo tentativo fu stroncato di allargare appunto l'esperienza COBAS anche altre realtà, e fu stroncato sul nascere. E ci sentiamo un pezzo musicale, sempre Procolarum, Homburg. Your multilingual business friend has packed the bags and fled. Even tall. Your trousers cost a 30 and your shoes are laced up wrong. You'd better take off your homework, 'cause your overcoat is too long. Town clock in the market square stands waiting for the hour. When its hands they both turn backwards, and on meeting will devour both themselves. Signpost cease to sign. Your trouser cuffs are dirty and your shoes are laced up wrong. You'd better take off your homework, 'cause your overcoat is too long. Una curiosità che poi non è neppure una curiosità, perché diciamo è testimonianza anche dei cambiamenti dell'azienda nel corso del tempo. Ecco, c'è stato Richard Ginori, Richard Pozzi. Ecco, come queste denominazioni sono frutto, diciamo, dei cambiamenti di proprietà o comunque di ristrutturazioni continue dell'azienda. Ecco, come ce lo puoi spiegare? Se? Allora, Richard Ginori era negli anni 60, era un gruppo industriale che aveva 10 stabilimenti sparsi in tutta Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, e piano piano questi stabilimenti sono stati dismessi, vuoi perché in alcuni casi la produzione è diventata obsoleta, non poteva più continuare, vuoi in altri casi, malauguratamente, mi ricordo su L'Aveno, in Lombardia, per una speculazione edilizia, fu venduta la fabbrica per trarre profitto poi dai terreni, che è una storia fra l'altro che riguarda da vicino anche Richard Ginori, perché l'area industriale su cui insiste Richard Ginori è un'area molto grande e per l'appunto in una zona molto appetibile nel centro, in sostanza nel centro di Sesto Fiorentino. Per questo a suo tempo fu fatta l'operazione che ho detto all'inizio, quella di vendere i terreni, perché era prevista appunto su quell'area lì poi di fare una speculazione, la Richard Ginori sarebbe chiusa e su quei terreni lì fare una speculazione edilizia. Devo dire, da questo punto di vista è stato importante e fondamentale l'appoggio che hanno avuto i lavoratori dal punto di vista delle varie amministrazioni comunali di Sesto Fiorentino, che via via si sono succedute, perché lì il piano strutturale, il regolamento urbanistico prima e il piano strutturale dopo, non è mai stato variato, nonostante, come dire, le pressioni che sono state fatte, ed è rimasto sempre con un vincolo industriale, quindi ad oggi, ed è quello che il sindaco continua a dire, l'attuale sindaco continua a dire, è che la Richard Ginori è su un terreno a destinazione industriale, rimarrà a destinazione industriale fin tanto che tutta la Richard Ginori non sia assolutamente in sicurezza. Quindi una fabbrica storica, una fabbrica con forti legami, con forti radici nel territorio. Quindi, ecco, nel momento in cui ci sono state difficoltà da un punto di vista occupazionale, diventa la fabbrica, come sono stati i rapporti e tra la fabbrica e gli abitanti, diciamo, e nello stesso momento, essendo lavoratori anche abitanti del territorio, ecco, come è il loro rapporto, diciamo, con le problematiche della zona, ecco. Allora, Alice Ginori è a Sesto Fiorentino dal 1735, è nata nel 1735 e Sesto Fiorentino sostanzialmente è cresciuta con la Alice Ginori, con la fabbrica. Quindi, come dire, Alice Ginori è a Sesto Fiorentino e Sesto Fiorentino è Alice Ginori. Quindi il legame con il territorio è fortissimo ed è assolutamente essenziale, perché non è pensabile una produzione delle porcellane di Alice Ginori fuori da Sesto Fiorentino, perderebbe, come dire, quel valore aggiunto che il territorio appunto che appunto gli dà. Quindi il legame con la comunità di Sesto Fiorentino è ovviamente molto forte. Lo dicevo prima, quando ci fu l'occupazione ricevemmo aiuto e solidarietà da parte di tutti i cittadini di Sesto Fiorentino. Non fu come l'occupazione degli anni 50, in cui veramente lì, come dire, il legame fra fabbia e territorio venne fuori in maniera eclatante. Nonostante questo, però, 3 anni fa appunto il legame fu forte fra territorio e fabbria. E ovviamente poi tutti i lavoratori, la maggior parte abita a Sesto Fiorentino in questo momento, ma non solo, Campi, Bisenzio, Prato, Firenze, quindi sono tutti lavoratori della zona e quindi sono molto sensibili. È molto vicino alle problematiche che ci sono in questo momento, vedi l'inceneritore, vedi l'aeroporto, viene seguita con attenzione tutte queste vicende, quindi sì, assolutamente, come dire, il legame della fabbrica, dei lavoratori fuori dalla fabbrica c'è ed è forte. Quindi una fabbrica non può chiudere, ecco. No, assolutamente, sarebbe, allora, come dire, un danno a livello non soltanto della nostra regione, ma a livello nazionale, forse anche di più. Alice Ginori, come dire, è una fabbrica tra le più antiche che sono nel mondo, che produce bellezza e arte da quasi 300 anni. Sarebbe, come dire, una perdita non soltanto per il tessuto industriale, ovviamente, ma per l'arte, per la storia, per la cultura. La Alice Ginori è veramente tutto questo. Ecco, appunto, ritornando al presente, attuale, quali sono, come interpretate, ecco, il futuro, e quindi conseguentemente le prossime mosse, le prossime iniziative da parte dei lavoratori, ecco. Ma ovviamente, come dicevo, tutto è legato a questa vicenda dei terreni, quindi ora siamo in una fase, come dire, di attesa, nel senso è stata occupata la fabbrica, abbiamo lanciato dei messaggi forti, sono appunto quelli che questa vicenda si deve concludere subito, immediatamente, perché non è più sopportabile attendere ancora, quindi siamo in questo momento di attesa. È ovvio che se questo momento di attesa dovesse continuare, le iniziative che faremo saranno altre e saranno sempre più importanti e sempre più forti. Ovviamente. Detto questo, non è che con la vicenda dei terreni si chiuda una partita, ovviamente, sono importanti, sono determinanti, ma poi c'è, come dire, da far sì che il piano industriale presentato dalla Alice Ginori sia poi applicato. E quindi, come dire, i lavoratori continueranno a essere vigili su questo aspetto e, se necessario, lottare anche su questo, perché è ovvio, i terreni vengono acquistati, poi subito dopo deve partire il piano di sviluppo della Alice Ginori. E quindi, come dire, le iniziative ci saranno ancora, se necessario, e sono convinto, come sempre, che i lavoratori le appoggeranno e parteciperanno sempre in maniera molto convinta. Beh, non sono del tutto, appunto, stiamo intervistando Giovanni proprio per farci spiegare un po' tutte le problematiche, le articolazioni di questa vicenda. Se hai da aggiungere qualcosa che magari dall'esterno non riusciamo bene a comprendere, ecco. Allora, dall'esterno capisco che la vicenda di Cagione sia molto, molto complicata. Delle volte come dire, è difficile anche per noi che la seguiamo direttamente comprenderla fino in fondo. Questa vicenda dei terreni, per esempio, è per certi versi incomprensibile. Ma l'unica cosa che posso dire è che io mi auguro che si concluda velocemente questa cosa della vendita dei terreni e che quindi si possa, come dire, iniziare una nuova era per la Liceo Ginori, anche perché i lavoratori ne hanno veramente bisogno, vengono da un fallimento, prima del fallimento da anni e anni di lotte, la Liceo Ginori in sostanza negli ultimi 20 anni non hanno mai avuto pace, e quindi come dire, c'è bisogno veramente ora di ripartire, di cominciare a lavorare con la giusta serenità, perché i lavoratori sono proprio allo stremo in questo momento, allo stremo di energie, e quindi, come dire, è necessario in tutti i modi far sì di ridare, se possibile, serenità a questi lavoratori. Aggiungo soltanto che questa è l'ultima proprietà di tante proprietà che si sono succedute in Liceo Ginori, e Liceo Ginori veramente è capitato di tutto e di più. Abbiamo avuto come maggiori azionisti la Banca Ior Vaticana, abbiamo avuto Sindona, questi hanno partecipato appunto al fatto che da 10 stabilimenti in tutta Italia se ne arrivasse ad uno solo. Ora finalmente c'è una proprietà, Gucci, un gruppo importante, un gruppo assolutamente, come dire, dal punto di vista con Kering dietro, assolutamente solido. Ecco, speriamo finalmente che da qui in avanti si possa cominciare a lavorare con la giusta serenità. Ecco, questo è quello che mi auguro. Passaggio al Nord Ovest su Radio Wombat, alla prossima, ciao ciao. Grazie, un saluto a tutti, ciao.